Italia in controluce. Benvenuti nella seconda edizione di Italia in controluce, il viaggio di Radio 24 nella cronaca italiana, i casi di Nera, di giudiziaria, le curiosità, il costume e gli spettacoli. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Benvenuti al Sud è un film che fa ridere, che divide, che fa pensare. Diciamo che è un film per unire il paese. In pochi giorni ha sbancato ai box office e Marta Cagnola ha così intervistato Claudio Bisio, il protagonista principale del film. Beh, io a questo film, che è un remake di un film francese di un paio di anni fa, mi sono avvicinato intanto come spettatore andando a vedere quando è uscito qui in Italia, giù al nord appunto, titolo italiano di Bienvenue chez les Ch'tis, titolo originale francese. E la prima cosa che avevo pensato tra me e me è stata: perché non è venuta a noi italiani un'idea simile prima dei francesi, dei cugini francesi che amo, stimo, adoro, ma insomma, porca miseria, perché? Punto. Dopo qualche mese, non più di tanti, mi arriva la telefonata della Cattleya dicendo: senti, abbiamo i diritti, vogliamo fare il remake italiano, avevamo pensato a te di fare il processo all'incontrario, uno del nord che viene mandato al sud. Quindi mi è sembrato, dico, vabbè, con un po' di ritardo, ma ci siamo arrivati anche noi. È la prima volta nella mia vita che faccio un remake. All'inizio temevo un po' questo fatto, perché dicevo, insomma, l'idea di fare una cosa già fatta. Poi, sai, non è un remake di un film di 50 anni fa che nessuno ricorda più, è un film di 2 anni fa. Quando ho letto la sceneggiatura ho subito capito che era una bella idea, pericolosa, perché secondo me in Italia, e poi mi è venuto in mente perché non c'era ancora venuta in mente questa idea di fare un film così, cioè un film comico, una commedia su quel tema, Nord-Sud, perché in Italia c'è poco da ridere su questo tema, no? Mentre in Francia non mi sembra che il problema degli Ch'tis, che è questo popolo del nord della Francia, cioè non è come la Scozia in Inghilterra o l'Irlanda del sud del nord, oppure i Baschi in Spagna, cioè il nord della Francia, io almeno, sarà mia ignoranza, ma io non ho mai sentito un problema degli Ch'tis in Europa. E invece la questione meridionale in Italia è un qualcosa che nasce da quando è nata l'Italia, quindi era un tema forse troppo vivo, addirittura troppo forte, per poterne fare con leggerezza una commedia che vuole essere poi leggera, una commedia, un film comico. Forse era questo il motivo, no? Però avendo avuto, e in questo senso ha aiutato secondo me il remake di un film francese, cioè tutto sommato, sai, un film sulla questione meridionale in Italia è già stato fatto, anche tanti ne sono stati fatti, uno recentemente, Gomorra, cioè Gomorra è il film sulla Camorra Napoli, cioè, tratto dal libro di Saviano, bellissimo, ed è un film che va visto, che ha vinto a Cannes, che a parte è girato benissimo, e poi è il film che parla di quei temi, e ovviamente non è, giustamente non è comico, perché c'è ben poco da ridere. E invece in questo caso, con la scusa secondo me di rimbalzo di un remake francese, siamo riusciti finalmente anche a ridere dei pregiudizi sul sud, cose che si sentono nei bar ancora oggi. Qualcuno prima intervistandomi mi diceva: ma questi pregiudizi sono un po', non è vero che ci sono più. Non sono d'accordo, io li sento ancora proprio. Magari non c'è più questa contrapposizione netta nord-sud in Italia, però il pregiudizio c'è, cioè il fatto che i meridionali non abbiano voglia di lavorare, che insomma, queste cose io le sento. Mi hanno rifiutato il trasferimento a Milano. Licenziato. Trasferito al sud. Al sud, tipo Bologna. Sei stato trasferito vicino Napoli. A Napoli? Ci resterai 2 anni. Ha detto che anche una cosa difficile, cioè rappresentare il settentrionale che fa ridere, che nella comicità italiana, soprattutto prima del cabaret, e anche in quello il tuo ruolo in Italia è particolarmente forte, forse, ecco, come stile, ma non era proprio, era il napoletano o il campano che faceva ridere. Certo, sì, la comicità lombarda o milanese in particolare è più surreale, io viene in mente Cocchi e Renato, cioè ci sono stati comici, ma è più appunto forse la definizione surreale è la più giusta, Iannacci, le cose un po' così veramente europee, mitteleuropee, il cabaret così di canzone, mezzo jazz, mezzo, e invece la scenetta è più napoletana, è più i romani che fanno le macchiette, si camuffano, no? Noi siamo più, pensate, dico Cocchi e Renato, potrei dire alle Franze, no? Come siano surreali la loro panchina. Quindi sono d'accordo con te che non è facile in un film dove invece non puoi fare le macchiette, non puoi fare. E invece qui la fortuna è quella di, anche in quel senso lì, quindi aver invertito i luoghi comuni, no? Nord-sud, anche dal punto di vista della recitazione, della comicità. Qui abbiamo un milanese tutto sommato apparentemente molto rigido, molto pieno di regole, qui si lavora, cioè, con tutti i luoghi comuni del nordista, ma in realtà impacciato, cioè la scena in cui lui si presenta per almeno un quarto d'ora di film con questo giubbotto antiproiettile, che al di là della gag iniziale quando glielo mette la Finocchiaro, so perché l'ho visto in sala col pubblico, fa ridere perché insomma è buffo e goffo, però lì se lo tiene fino ad andare a dormire, ci dorme, si sveglia la mattina, tutta la prima giornata lavorativa in ufficio ce l'ha, se lo toglie il giorno dopo. Quindi io voglio dire, tanto per andare per due o tre settimane ho recitato col giubbotto antiproiettile, perché queste scene si girano in parecchi giorni. Questo è il napoletano che urla, un napoletano a Milano, lo sentite? È Alessandro Siani. Scusi. Sì. Manca molto per Castellabate? Ah, niente, credo che si saranno arravugliate 3, 4, 5 macchine, non si è capito niente. Comunque, guarda, la colpa è sempre questa chiave che è stata, che non si capisce mai, è sempre andata a sala. Mi sa quando cazzo arriviamo, ma... Grazie. Non so. Arravugliate la chiave. Ma come parla? E questo incontro con Siani, so che fate sempre delle gag, anzi proprio tra Milano e Napoli. Siani viene dal cabaret, cabaret... Maestro Fo, ma lei ha visto il film? Sì, ho visto, ho vinto, quale domanda? No, la domanda era, maestro, ha visto per vedere tutto, cosa ne pensa? Penso sia una gran cagata. Il Medioevo, la cagata è una bella cosa. Sì, perché il Magna, il Tibaci, il Val, Brigotte, quasi la merda. Italia in controluce. Vi ricordate le ronde? Quelle composte da cittadini, strutture istituite dal ministro dell'interno? Hanno avuto, secondo voi, successo? Alice Cason. Uno sente sempre che ci sono episodi nei nostri comuni di persone che fanno così. Uno dice, ostia, l'avevo saputo. Alla sera, il giretto, quando che è così, possiamo farlo anche noi. Ecco, si dà una mano. Da un anno a dare una mano ci pensano gli osservatori volontari per la sicurezza. L'8 agosto 2009 il ministro dell'interno Roberto Maroni ha firmato il decreto ministeriale che ufficializza le ronde, suscitando molte polemiche e qualche ricorso. A mezzanotte va la ronda della Lega. A Varese una settimana fa è iniziato il primo corso di formazione per aspiranti rondisti. Poteri e limiti del volontario, competenze statali, pronto soccorso, persino un incontro con una psicologa. I 70 partecipanti, 6 sono le donne, riceveranno al termine un attestato di frequenza e potranno cominciare a vigilare sul proprio territorio. Sono già nella protezione civile e amo la sicurezza. Voglio vedere un po' di pulizia. C'è tanta gente che ha bisogno di aiuto e non se ne accorge nessuno. I ragazzi per la droga e le persone anziane che vengono truffate. Forse vedendo solo un giubbino speriamo che rassicuriamo un po' le persone. Sono già molto chiari i limiti, ecco, non è che uno deve andare a fare lo Schwarzenegger o quell'altro, come si chiama, il Rambo, ma per l'amor del Signore non se ne parla neanche, ecco. Lo scopo è proprio quello lì, di cercare di avere la quiete nei nostri paesi e basta. Non è che noi andiamo a scoprire la cazzo, se va qua in Svizzera o se va in tutti i paesi in giro fanno questo tipo di cose. Finora però le ronde non hanno avuto grande successo, l'unica pienamente operativa è a Varazze, in Liguria, e le prefetture non sono certo sommerse dalle richieste. In realtà di associazioni che svolgono i compiti oggi degli osservatori per la sicurezza ce ne sono già da tempo in tutta Italia, anche a Varese. Noi dobbiamo solo osservare e basta, perché anche noi quando giriamo anche con l'altro gruppo osserviamo, se ci sono problemi chiamiamo le forze dell'ordine. Non c'entra niente la Lega, è proprio un aiuto al territorio. Girando la sera la gente ci vede, ci saluta, sono contenti che giriamo. Quelli che non sono d'accordo su queste ronde gli auguro di trovarsi ladri in casa come li ho trovati io a casa mia alle 3 di notte mentre dormo. Forse cambiano idea. Che non ci siano armi sono perfettamente d'accordo, anche perché io non ho né la voglia né la capacità di sparare o di farmi sparare da qualcuno. Io voglio controllare il territorio. Probabilmente se ci davano qualcosa in più del telefonino, non lo so, poteva essere lo spray al peperoncino, sarebbe stato meglio. In città i pareri sono contrastanti. In generale, secondo me, Varese è una città molto sicura, molto tranquilla. Ovviamente, come in tutte le città, la zona della stazione purtroppo è una zona non mal frequentata, però magari che bisognerebbe un attimo sistemare. Però, insomma, io mi sento abbastanza sicura a vivere qui. Non ho paura, però ci sono i ragazzini che sono delinquenti, perciò una ronda da sicurezza. No, non c'è bisogno, no. Però... c'è già tanta di quella polizia, questi angeli urbani non servono a niente. Non serve, i Power Ranger. Fuori da Varese. Ci sono troppi sbirri qua, non servono gli angeli urbani. Gli sbirri girano troppo. A parte che devo dire, gli angeli urbani sono meno stronzi dei poliziotti. Ecco. Questo da dire, perché gli sbirri hanno l'autorità, allora con noi fanno quello che vogliono. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, l'archivio di tutte le puntate, radio24.it. Se amate Facebook, abbiamo un gruppo Radio 24 Italia in Controluce dove potete lasciarci, come sempre, come hanno fatto in centinaia, i vostri temi. Cercheremo naturalmente di soddisfare nelle prossime settimane tutti i vostri desideri. La mia voce torna domani alle 6.30 su Radio 24.